Cari fratelli e sorelle, nella nuova serie di catechesi iniziata poco fa, vogliamo considerare le origini della Chiesa per capire nella Chiesa nascente il disegno originario di Gesù, capire così l'essenziale della Chiesa nella varietà dei tempi e capire anche il perché del nostro essere nella Chiesa e come dobbiamo vivere il nostro essere nella Chiesa. Considerando quindi la Chiesa nascente, possiamo scoprire due aspetti. Un aspetto viene fortemente messo in luce da Sant'Ireneo di Lione, fine del secondo secolo, martire, grande teologo, il primo che ci ha dato una specie di teologia sistematica. Sant'Ireneo scrive: dove c'è la Chiesa, lì c'è anche lo Spirito di Dio, e dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la Chiesa ed ogni grazia, poiché lo Spirito è verità. Quindi esiste un intimo legame tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa e dona alla Chiesa la verità e fonde, come dice San Paolo, nei cuori dei credenti l'amore. Ma c'è un altro aspetto, questo intimo legame della Chiesa che con lo Spirito non annulla la nostra umanità con tutta la sua debolezza. E così la comunità dei discepoli conosce dagli inizi non solo la gioia dello Spirito Santo, la grazia della verità e dell'amore, ma conosce anche dagli inizi la prova, costituita soprattutto dai contrasti circa le verità di fede, con le conseguenti lacerazioni della comunione. Come la comunione dell'amore esiste sin dall'inizio e sarà fino alla fine, così, purtroppo, sin dall'inizio subentra anche la divisione. Non dobbiamo meravigliarci che esiste anche oggi. San Giovanni nella sua prima lettera dice: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Quindi c'è il pericolo in tutte le circostanze del mondo e in tutte le debolezze anche della Chiesa di perdere la fede e così anche di perdere l'amore e la fraternità. È quindi un preciso dovere di chi crede, la Chiesa dell'amore e vuol vivere in essa, anche riconoscere questo pericolo, accettare che non è possibile poi la comunione con chi si è allontanato dalla dottrina della salvezza. Che la Chiesa nascente fosse ben consapevole di queste tensioni possibili nell'esperienza della comunione lo mostra bene la già citata prima lettera di Giovanni. Non c'è voce nel Nuovo Testamento che si levi con più forza per evidenziare la realtà e il dovere dell'amore fraterno fra i cristiani, ma la stessa voce si indirizza con drastica severità agli avversari che sono stati membri della comunità e ora non lo sono più. La Chiesa dell'amore è anche la Chiesa della verità, intesa anzitutto come fedeltà al Vangelo affidato dal Signore Gesù ai suoi. La fraternità cristiana nasce dall'essere costituiti figli dello stesso Padre, dallo Spirito di verità, dice San Paolo, Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito Dio, costoro sono figli di Dio. Ma la famiglia dei figli di Dio, per vivere nell'unità e nella pace, ha bisogno di chi la custodisca nella verità e la guidi con discernimento sapiente e autorevole. È ciò che fa il ministero degli apostoli. E qui arriviamo a un punto importante: la Chiesa è tutta dello Spirito, ma ha una struttura, la successione apostolica, con la responsabilità di garantire il permanere, lo stare della Chiesa nella verità donata di Cristo, dalla quale viene anche la capacità dell'amore. Il primo sommario degli Atti degli Apostoli esprime con grande efficacia la convergenza di questi valori nella vita della Chiesa nascente. Abbiamo sentito questo brano e lo ripeto: erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere. La comunione nasce dalla fede suscitata dalla predicazione apostolica, si nutre dello spezzare il pane e delle preghiere e si esprime nella carità fraterna e nel servizio. Siamo con questo testo degli Atti degli Apostoli di fronte alla descrizione della comunione della Chiesa nascente nella ricchezza dei suoi dinamismi interni e delle sue espressioni visibili. Il dono della comunione è custodito e promosso in particolare dal ministero apostolico, che a sua volta è dono per tutta la comunità. Il vento non è sempre identico con lo Spirito Santo, ma può farci pensare anche alla forza dello Spirito Santo. Ma ritorniamo, gli apostoli e i loro successori, cioè i vescovi, sono pertanto i custodi e i testimoni autorevoli del deposito della verità consegno da Cristo alla Chiesa, come sono anche ministri della carità. Ambedue insieme devono sempre pensare alla inseparabilità del doppio servizio che solo uno, verità e carità, rivelata, donata dal Signore Gesù. Il compito dei vescovi, dei successori di apostoli, è in questo senso anzitutto un servizio di amore. E la carità che essi devono vivere e promuovere è, come detto, inseparabile della verità che custodiscono. La verità e l'amore sono due volti dello stesso dono che viene da Dio e che grazie al ministero apostolico è custodito nella Chiesa e ci raggiunge fino al nostro presente. Anche attraverso il servizio degli apostoli e dei loro successori, l'amore di Dio Trinità ci raggiunge per comunicarci la verità che ci fa liberi. E tutto questo che vediamo quindi nella Chiesa nascente ci fa pregare per i successori degli apostoli, per tutti i vescovi e per i successori di Pietro, che siano realmente insieme custodi della verità e della carità, che siano in questo senso realmente apostoli di Cristo, perché la sua luce, la luce della verità e della carità, non si spegne mai nella Chiesa e nel mondo.